Unità 2. Lessico. Traccia 13. 1. Scusi, che ore sono per favore? Le 10:25. Grazie. Di niente. 2. Senta, scusi, allora? Sì, sono le 14:30. 3. Sai che ore sono, per favore? Un attimo, sono le 17:40. È tardi, devo andare, altrimenti perdo il treno. 4. Paola, che ore sono? È tardi, è l'una, la banca chiude all'1:20. 5. Che ore sono? È mezzanotte in punto. Andiamo a letto, è tardi. 6. Potrebbe dirmi l'ora, per favore? Certo, sono le 4:15. Grazie mille. Prego. 7. Che ore sono? Sono le 9:30. Sbrigati che non ci danno più la colazione. 8. Allora, per piacere? Sì, sono le 2:10. Sa dirmi se la posta è ancora aperta? No, non credo. 9. Che ore sono, Antonio? Le 21:17. Dobbiamo aspettare ancora mezz'ora. 10. Hai l'ora? Sì, sono le 6:00. Bene, abbiamo ancora un po' di tempo. 11. Che ore sono? Le 3:30. Allora il mio orologio è avanti. 12. Senti, scusa, che ora è? 12:15.